grazie dell'invito, Stefano. Prego, Camilla Vizzani. Camilla Vizzani, cosiddetta. Cosiddetta Alchemilla. Alchemilla Vizzani. Alchemilla Vizzani. No, grazie dell'invito, perché in effetti questi incontri hanno un ingresso limitato e quindi il pubblico è ristretto. E poi sono già finiti i posti, giusto? Sono qua, stanno finendo. Ah, ok. Ci sono ancora qualche. Ultimissimi. Fingiamo che ci siano ancora qualche posto. No. Perciò parlarne qua è. Sì. È bello. No, e poi ho visto che comunque venivano tutti registrati, giusto? Allora, no, aspetta un attimo. Innanzitutto mi scuso con Sebastiano Lillo perché non gli abbiamo fatto sentire niente, ma adesso poi lo recuperiamo dopo e lo sentiamo come musica di sottofondo. Ma ringraziamo Agnese che ci manda. Ah no, scusa, Nicola di Peyote Press che ci manda sempre un sacco di musica. Mentre invece stasera parliamo di artisti marziali. Che cos'è artisti marziali? Non ci faccio fatica. È un delirio. No, in realtà hai è volutamente un delirio. Hai inventato una roba. Quando la tua vita è un delirio, tu porti la tua vita nell'arte e quindi il risultato è il delirio. Allora la domanda successiva è: perché la tua vita è un delirio, Veronica? No, non è vero. No, però allora devo dire che fortunatamente da quando sono tornata a vivere in Italia ho vissuto negli ultimi 7 anni accompagnata da un grande artista, mm-hmm. e ho recuperato una dimensione sociale dell'arte che a New York mi mancava molto. Ah, dai. Perché è molto difficile avere una socialità quotidiana dell'arte. Con gli artisti proprio, che non sia anche per fini di lavoro, di business, eccetera, eccetera. O comunque sempre molto più di fretta, mentre ho proprio goduto io nel tornare in Italia, mm-hmm. a prendermi lo spazio di fare le scene in studio, a casa, con gli artisti, che certo. sono come me, cioè mm-hmm. siamo noi, e parlare tra di noi. Mm-hmm. E quindi questa cosa me la sono portata dietro e gli ho voluto bene. E forse questo è un omaggio a questa esperienza di vita. Sì, no, intanto diciamo che artisti marziali è una sorta di match tra due artisti che si parlano senza un tema specifico, no? Sì, allora, il format è nella sua semplicità penso che abbia però una sua dimensione, no? Certo. Originale, nel senso che un'idea semplicissima ma geniale. Cioè, sì, è molto semplice, geniale. Cioè è quello che accade a casa mia, sì. Nel senso che io... soprattutto perché scrivo di critica d'arte, quindi mi rapporto continuamente con altri critici. Quando vado a vedere le mostre, sono stata accompagnata da Alessandro, il mio compagno, che è stato il mio compagno per tanti anni, a vedere le mostre con altri artisti. La visione che ho delle opere è sempre molto diversa poi da quella che riscontro nel mondo dell'arte con i miei colleghi critici. Certo. E spesso la visione degli artisti sulle opere di altri artisti è veramente importante, che dovrebbe essere recuperata di più nella critica d'arte. Hanno uno sguardo più pragmatico, a volte invece più poetico, più assolutamente fuori. Quindi questo secondo me è molto arricchente ed è quello che io poi porto con me anche nei miei scritti, nelle mie cose. Per me è molto importante, quindi volevo semplicemente esplicitarlo. Quindi artista contro artista, cioè neanche contro, cioè sono due una conversazione dove due artisti si guardano in faccia e si fanno una domanda a testa e quindi rispondono in maniera alternata alle domande, dove non c'è nessun tipo di regola. Cioè, sì, appunto, come è un proprio po', la un po' peggior... tipo un match di, come si chiama quella WWF. Pratica marziale, esatto. Quella più strana, esatto, il WWF, dove a un certo punto meni anche l'arbitro, capito? Madonna, non dirlo. Infatti, no, perché ci aspettiamo che Favelli lo faccia. L'inizio è stato soft, molto. I primi incontri è stato amorevolissimo. Amorevolissimi, no, sì. Devo dire che Cioè, hai avuto questa, questa intuizione di chiamare Paolo Icaro e Marzia Migliora insieme e loro si sono innamorati l'uno dell'altro, per cui era veramente una poesia d'amore quello che abbiamo assistito. Ma in realtà io in questo progetto non faccio niente, cioè a parte averlo, aver creato i fili, io non manovro nulla, non faccio, non sono, e poi la scelta non è la scelta, infatti è messa a cura di Veronica Santi, ma in realtà io non curo niente, io faccio una mediazione energetica, emotiva, spirituale, che non ha niente a che fare con la scelta intellettuale, perché gli artisti spesso sono scelti come le ciliegie. Cioè uno tira l'altro. Io non ho sono andata a cena da Marzia. Come le scelti gli artisti? Ah, ecco, ok, sei andata l'ho a cena vista, da Marzia. Le ho detto: "Senti, sto a fare sto progetto. Ma te che ne pensi? Fa schifo? Ti piacerebbe? Esprimi un desiderio, c'è un artista". Ah, fantastico. "Esprimi un desiderio, c'è un artista che vorresti conoscere". Dopo due giorni lei mi ha chiamato. Cioè, quindi io non ho fatto niente. Icaro me l'ha dato lei il nome. Al 333-180-94-94 ci hanno scritto: "Potevate chiamarlo Artist Fight Club". Bello. Eh sì, poi chiamavamo Renzini, però special guest. Special guest Renzini con le cinque regole. Prima regola: non parlare del fatto. Esatto. No, vabbè, comunque ci è siamo un progetto dai. Divertente, io credo, oltre che super super interessante. Ed è un progetto che fa parte di Vasi Comunicanti. Vasi Comunicanti. Che cos'è sì. sto Vasi Comunicanti sto invece? Sti Vasi Comunicanti. Cosa sono che sti sono? Vasi Comunicanti? Sono i gasi comunicanti, il gaso comunicante. No, sono, ma ti dico banalmente, le stanze di Alchemilla e quindi gli artisti che ci sono dentro e che abbiamo pensato così di raccontare in questo progetto che è alla quarta edizione, quindi comunque ogni anno ha una forma diversa, parte dall'artista di turno che viene scelto sia in modo assolutamente casuale come il sorteggio, come fu il primo anno, e poi in conseguenza di progetti o opportunità che via via durante l'anno si prospettano perché e via. Ricordiamo, visto che i nostri ascoltatori sono un po' distratti, magari non ti conoscono, che cosa succede ad Alchemilla, che cos'è questo spazio, perché non è semplicemente uno spazio espositivo. Alchemilla è un centro culturale, uno spazio senza scopo di lucro dove convivono diversi artisti e spazi diversi che utilizziamo sia per fare mostre, quindi aprire al pubblico, sia invece come studi d'artista e quindi più privati, dove però comunque si può sbirciare, accedere anche su appuntamento, certo, comunque è uno spazio abbastanza, anzi direi aperto e sì, accogliente, quindi bisogna solo un po' informarsi e venirci a trovare. Adesso, a proposito, c'è anche una mostra in corso, certo, quindi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Esatto, infatti, bravissimi. Infatti volevo specificare super. Che non vengo pagato da Alchemilla per... è una casualità, sì. No, in realtà sono due incontri, uno più interessante dell'altro. Bene. E dunque giustamente abbiamo deciso di invitarvi, insomma. Perché tu hai assistito e poi diciamo che è uno spazio con la cucina. È uno spazio con la cucina. Che questo infatti, non è da sottovalutare. Infatti, perché non è assolutamente da sottovalutare. Hai capito? Invece, ma Mazzapè è il nuovo album di Inediti dello Straniero che esce il 6 dicembre, o è uscito il 6 dicembre? No, oggi è solo il 2, per cui uscirà il 6 dicembre. Frutto dell'incontro tra Le Etichette, La Tempesta e Pioggia Rossa Dischi, l'album dipinge paesaggi evocativi e contrastanti, luoghi oscuri e misteriosi, piazze illuminate e a festa, cimiteri con croci silenziose, cantine polverose e panorami mozzafiato. Ringraziamo Agnese di Per Press che ci ha mandato questo pezzo e ascoltiamo Luci Spente dello Straniero. Wow. Lo conosci? No, bellissima la spiegazione, la lettura di Pasquale. Grazie. Si apre a mozzafiato. L'ispirazione come un lampo umido. bagliore, che appena mi riprendo resta solo lo stupore. Allora torno indietro e provo a replicare il caso, qualcos'altro la farà arrivare. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente, non c'è più niente. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente. È nascosta chissà dove, evapora nell'aria, affonda dentro il fango, si perde con il sonno. L'unico motivo mio è l'ispirazione, un segnale intermittente da captare, come una scia da inseguire, qualcosa che non so spiegare, e ora deve tornare. Siamo tornati in tempo per sentirti tossire. Esatto. Figurati, non ti preoccupare, io non ti offro. No, qui a Radio Città Fujiko siamo poco ospitali, non abbiamo neanche un bicchierino di vino, al contrario di Alchemilla, che alla scorsa inaugurazione c'era Andrea Renzini che stappava bottiglie senza tregua. Beh, dai, invece, quella prima faceva lo zucchero filato. No, infatti perché poi per un attimo mi sono confuso tra le due serate, perché quell'altra serata c'erano Veronica. Troppe Veroniche. Veronica Veronesi, grazie, non mi veniva il cognome, e Francesco Ribuffo invece che facevano dei cocktail fantastici per la serata di, che secondo me avete speso più soldi di quanti ne avete. No, non è vero, è andata benissimo. No, era il fundraising, la macchina anche ha funzionato perfettamente. Ok, ottimo, perché giustamente ok, qui abbiamo sempre un nostro ascoltatore misterioso o una nostra ascoltatrice misteriosa che ci scrive: chiedigli un appuntamento per visitare la stanza di Norese, che quello là chissà cosa combina. Tra virgolette, non leggere in diretta, peccato che dovevi scriverlo come prima Norese cosa. L'ha scritto. No, non l'ha scritto Norese. Siamo sicuri? Sì, no, io riconosco la faccia di chi ha scritto, che comunque ringraziamo per starci ad ascoltare in diretta. Abbastanza. Non si sa mai cosa fa Norese. Sì, infatti. Non bisogna farsi questa domanda. No, infatti, assolutamente. Comunque salutiamo anche Giancarlo, certo. Norese, che è una sorta di residente anche lui ad Alchemilla, giusto? Insieme a tanti altri artisti. Chi sono gli artisti in residenza? In residenza, sì, che hanno lo studio da Alchemilla, ci sono il Cane Morto, mm-hmm, che avete visto tutti l'anno scorso per Arte Fiera, conosciuto meglio, diciamo, E poi c'è Alessandro Aprile, che è arrivato da un anno, che è un giovane pittore qui all'Accademia ancora, di origine siciliana. Che sarà questa settimana. E che sarà appunto, è vero, uno dei protagonisti del prossimo incontro, insieme a Paola Angelini. Assolutamente, sì, lo buttiamo. Mercoledì alle 18, lo buttate nella mischia immediatamente. No, infatti ho letto, perché lui in effetti non lo conoscevo, ho letto la sua mini bio e ho visto che è ancora in Accademia. Sì. E poi c'è Zheng, che invece ha partecipato allo scorso incontro, certo. Ningguan, che è lì da diversi anni, artista di origine cinese, ma che anche lui ha frequentato l'Accademia qui a Bologna e fa video e non solo, poi ha raccontato molto anche di tutto il suo percorso all'incontro, quindi comunque un artista molto raffinato per me. E poi Valentina Medda, unica donna in mezzo a un sacco di uomini. Sì, di uomini. Mm-hmm. E quindi sì, gli artisti più o meno sono questi. Adesso c'è anche Gabriele Ermini per qualche tempo. Che poi non si sa se cane morto sono uomini o donne. Cane morto, esatto, sono un'entità. Cane. Sì, no, ma sono parzialmente misteriosi, parzialmente uomini. Sì, okay. Sono uomini. No, in effetti quando spostavano le tele con le ruote sembravano abbastanza uomini, però non si sa mai, visto che erano mascherati. Anche le macchinine direi che sono un gioco da maschi. Tipicamente maschile. Sì. Beh, anche il Kung Fu è un gioco da maschi. Sì. No. Ah no, volevo scusarmi con chi tentava di telefonare al numero della diretta, ma io non sono in grado di prendere le telefonate, per cui cavoli vostri. Richiamate domattina quando c'è Willy e probabilmente vi risponderà. Ecco, gli artisti più o meno sì, sono questi. Ho capito. E Alessandro incontrerà Paola il prossimo mercoledì 4 dicembre. Saranno incontri probabilmente molto diversi da quelli che abbiamo visto mercoledì scorso, almeno noi non abbiamo delle aspettative particolari, anzi direi che questo è proprio un progetto bello anche per questo aspetto, no? Dopodiché alle 19:30 abbiamo l'incontro, cioè dei pesi massimi, appunto, con la meravigliosa Stefania Galegati, che arriva da Palermo a sfidare Flavio Favelli, l'acerrimo Flavio Favelli, che chissà cosa salta fuori. Sono super curioso. Io sono molto felice che lei abbia accettato l'invito. Beh, Stefania, anche perché dopo il 470esimo invito rifiutato, lei ha detto sì. Ah, vedi? Ok. La donna del monte ha detto sì. Super. Perché comunque Flavio è un artista che può mettere anche in difficoltà perché comunque è una persona colta, non è soltanto un artista bravo manualmente a fare le cose, ma anche una testa, insomma, acuta, specifica, con una sua dinamica che non tiene nascosta, perché comunque scrive anche sul giornale, una persona che si espone, quindi... non è assolutamente un avversario. Non un avversario semplice, facile. E quindi sì, sono felice che Stefania abbia accolto l'invito con un entusiasmo incredibile e un'energia che ci è arrivata proprio tipo valanga. Beh, Stefania è fantastica. Sì. Infatti anch'io sono molto curioso di questo incontro. Penso che sarà molto divertente. Anche perché entrambi a loro modo sono piuttosto ironici, per cui chissà se salta fuori una roba seria o salta fuori una roba. È stato bello leggere, perché abbiamo fatto compilare a chi ha ascoltato gli incontri questa piccola scheda anche spazio per scrivere suggerimenti o. Sì, quello sordo ero io, perché in effetti Zhang non lo sentivo per niente. Io ero seduto dietro di lui, lui parlava pianissimo. Non lo sentivo io, ero accanto. Questo va migliorato. No, ma il fatto che mancasse un po' di attrito, anche questo è stato un punto che è emerso, ecco. Mm-hmm. Ci voleva... il frustino. No, non ci vuole. No, scherzo. Saranno soddisfatti la prossima saranno tutti diversi. Cioè, credo. Se fosse che è un format che richiede quel tipo di attitudine, ci sarebbe una sceneggiatura, ci sarebbero certo. degli autori che hanno scritto il programma, cioè il format, ci sarebbe un intermediario che manovra. E invece, secondo me, la questione del format è proprio quella di lasciare che le cose accadano per come devono accadere. E proprio per non avere poi alla fine un podcast, un prodotto uniformato, cioè l'idea è certo. proprio quella di non essere uniformati, perché è così tra artisti, cioè è inutile no, che no, ce la infatti, raccontiamo. Ci sta, ci non sta c'è benissimo. Una metodologia, non la vogliamo la metodologia, sennò avremmo preso il critico certo. Mario Rossi, che sarebbe stato lì in cattedra Luca a fare Rossi. Le no Luca no. Scherzo, ti interrompo perché ci sono le pubblicità delle... è già passata mezz'ora, incredibilmente, ci sono le pubblicità delle 20:31. Siamo il coro di periferia e questo è Cozzo Spaziale. Ve lo racconto in diretta. Guarda. Vai, abbiamo fatto questo workshop e con Nemanja Svjanović, che poi è venuto ospite anche qui, appunto, e la classe doveva votare la stampa che gli era piaciuto di più. Abbiamo fatto una sorta di sondaggio. Di gara di monotipi per vincere il catalogo di Nemanja. Cioè, indovinate chi hanno votato? Cioè, l'unico maschio che su 33 studenti, di cui 32 donne e un maschio, ha vinto il maschio. Loro sapevano che la stampa era sua, capito? Però comunque ha vinto lui, che è abbastanza incredibile. Che no? Incredibile, sì. Molto sì. incredibile. No, io infatti, cioè, mi è venuta quasi da cazziarle, capito? Per il fatto che, cioè, che secondo me non doveva vincere, anche se fosse stato il più bravo e il più bello e il più sì. Una lotta ancora lunga, cioè sì. Nasciamo in una società maschilista, quindi prima devi diventare femminista, quindi depurarti, e poi dopo riesci a capire che cos'è la parità, cioè l'uguaglianza, l'assoluta necessità di essere l'uno e l'altro. È difficile la faccenda. È molto difficile, è un processo lungo, ci arrivi a 40 anni. Un processo forse lungo che non... se hai lavorato prima. No, più che altro non sono sicuro che stiano migliorando le cose. Quello mi dà un po' da pensare. Perché no, comunque no, sono le cose in parte migliorano, in parte si estremizzano, perché ovviamente quando sei messo all'angolo estremizzi. E quindi ci sono delle reazioni più forti che sono delle voci più alte. Però che non si può dire che non c'è una certa sensibilità adesso tra i giovani di 20 anni su questi temi, perché c'è, oggettivamente c'è. Poi che sia anche lì da depurare, da rivedere, da risistemare, da accompagnare, da amare, da abbracciare, da metterci anche dentro dei sentimenti meno certo. rabbia e più amore, sì, sarà una lunga strada. Meno rabbia e più amore. Uè, sì, mi sembra un'ottima idea. Infatti. Peace and love. E dunque cosa ci aspettiamo mercoledì dalle ore 18? Il sangue. A Stefania questa che si lancia una versione splatter. Questa è versione pulp. La versione pulp di Stefania, ma no, Stefania Gallegati è un'artista meravigliosa e non credo che litigheranno. Poi chissà, insomma. Ci si può aspettare di tutto. Tu pensa che loro si sono incontrati inspiegabilmente, ma il caso sappiamo che non esiste, all'aeroporto, cioè che non si sono incontrati tante volte in situazioni artistiche, ma non si sono mai parlati. Ah, dai. Da qua, no, non si sono mai conosciuti in realtà. Infatti è stato un desiderio poi di entrambi, quello di fare questa, sì, poi c'è tutti i retroscena. Ah, certo. Perché non, sì, la conosco, ma non so chi è, non ci ho mai parlato, è una persona con la quale io ho mai scambiato più di 3 parole, quindi è un'occasione per conoscere. Infatti quando abbiamo poi scambiato i materiali sui lavori l'uno dell'altro, perché io faccio quest'opera di mediazione, sì, certo. Non tocco nulla, inoltre delle mail sui materiali, se qualcuno vuole condividere i materiali della propria pratica per farla conoscere all'altra persona, perché non è detto che l'altra persona conosca il lavoro dell'avversario, no, assolutamente. E anzi, più delle volte poi le cose scelte sono anche testi particolari che magari non avevo letto neanche io, quindi è un formativo per tutti alla fine. E, insomma, loro, per la parte la più lunga del previsto, si sono incontrati all'aeroporto. Per caso. In un non luogo, mm-hmm. loro da quando hanno saputo che si intervistavano, tipo, entrambi mi hanno telefonato per dirmi: oh, ma sai che questa, cioè, questo, non l'ho mai considerato, adesso lo incontro all'aeroporto, abbiamo avuto un incontro all'aeroporto. Così. Che è già una storia romantica, questa cosa. Anche no, questa, infatti, no? Ho capito, ho già capito che sboccia l'amore come con Icaro e la mafia migliori. Beh, amore, odio, insomma, sono sempre sentimenti, certo, tangenti poi, Molto bene. Che ci vai a ascoltare adesso? In realtà l'angolo della menzione. Vi faccio ascoltare una pappardella di roba, perché anche questa settimana ci sono un miliardo di cose. Partendo da domani, presso la saletta Concetto Pozzati della biblioteca Mambo, si tiene Critica d'arte e poesia, una conversazione tra il critico e curatore Antonio Grulli, il direttore di Mambo Lorenzo Balbi e la poetessa e critica d'arte Alison Grimaldi Donahue. La conversazione prevede anche la lettura di poesie. Tutto questo è alla Biblioteca del Mambo domani alle 17.30, questa è un'altra cosa da non mancare, è in via Don Menzoni 14. Mentre invece mercoledì 4 dicembre dalle ore 18 abbiamo Artisti Marziali, e di questo appunto un format sperimentale a cura della critica d'arte filmmaker Veronica Santi, che abbiamo qui con noi, che indaga la pratica artistica di 8 autori attraverso 4 incontri scontri verbali. E appunto abbiamo alle ore 18 Alessandro Aprile con Paola Angelini, che è il terzo incontro, e alle 19.30 Stefania Galegati e Flavio Favelli, che è il quarto incontro. Poi sono finiti lì, dunque? Sono momentaneamente. 4. Ok, ma questi vasi comunicanti sono annuali, per cui dobbiamo aspettare un altro anno per i prossimi quattro incontri, oppure possiamo... Sono due cose che avranno separate d'ora in poi, nel senso che... cioè, separate nel senso... Sì, no, ci sta di avere artisti marziali anche fuori da vasi comunicanti. Eh sì, certo. Okay. Sì, molto anzi, bene. Artisti marziali avrà una sua evoluzione che già abbiamo in qualche modo... così imbastito, però è tutto da capire e da sviluppare in tantissimi modi. Anche secondo diversi. Me, fra l'altro, è un tipo di incontro di cui Bologna ha bisogno, sì, per cui penso che sia necessario. L'Italia bravo. Ha bisogno. È necessario, sì, certo. Tesoro, anch'io. No, lo so. Credo che sia una delle sue caratteristiche, perché c'è sia questo, almeno dal mio punto di vista, ma ne parlavamo anche prima, questo doppio aspetto. Sia live che eventualmente in podcast in un secondo momento, è qualcosa che in realtà dovrebbero essere live su Rai 1, Ale. Perché lì diventa televisivo, invece qui è proprio una dimensione anche inusuale, no? Perché comunque c'è la presenza nel momento in cui accade, quindi il ritrovarsi e l'ascolto, la concentrazione, e poi eventualmente anche un ascolto successivo in podcast da solo nella tua cameretta o dove vuoi, però questa fruizione così anche diversa per il pubblico, e anche appunto che parte da un trovarsi in presenza, è molto importante. Sì, importante. Ti metto lo stacchetto finale. Tutto questo naturalmente è ad Alchemilla a Palazzo Vizzani in via Santo Stefano 43 a Bologna. Poi da domani sul podcast di Coxo Spaziale troverete il link per registrarvi, se mai ci fossero degli posti liberi ancora. Ultimissimi posti liberi. Lista d'attesa, perché poi c'è sempre qualcuno che magari non si presenta dopo aver prenotato. Sì, sì, ci sono un sacco di defezioni, poi di rientri, poi tornate, poi rientri, poi ritorni. Fantastico. Sì. Mentre invece lo stesso giorno, però alle 21, per cui volendo uno di corsa ce la potrebbe anche fare, abbiamo Molto dolore per nulla, che è un monologo che succede all'ITC di San Lazzaro, e abbiamo la meravigliosa Giulia Quadrelli, che ha intervistato Luisa Borini, e adesso la andiamo a ascoltare, così capiamo anche di che cosa stiamo parlando, perché io non ne ho la più pallida idea. Detto questo, questo simpatico player non mi lascia far andare. No, ma guarda che sei un mago lì dietro. Sono un mago, io ti vedo da qua, tipo mi sembri quasi sembro qua, sembro so, qua sembro, prestigiatore, sembro, considerando la console e la console degli anni 70, forse in effetti è un po' da prestigiatore. 70 sei ottimista. Esatto, eccola qua, sentiamola. Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Coxo Spaziale, io sono Giulia Quadrelli, oggi in veste di inviata speciale fuori studio, sono qua con una carissima amica e collega, attrice meravigliosa Luisa Borini, che è qua con noi perché, qua con me realmente, perché dopodomani, mercoledì 4 dicembre alle ore 21, sarà in scena all'ITC, il Teatro dell'Argine di San Lazzaro, con il suo spettacolo Molto dolore per nulla. E quindi volevo farle qualche domanda per farci raccontare un po' di che cosa si tratta. Ciao Luisa. Ciao, ciao a tutte e a tutti e grazie dell'invito. E raccontaci un po', Molto dolore per nulla, che spettacolo è, di cosa parla e come nasce? Allora, Molto dolore per nulla è un monologo tragicomico sul macro tema della dipendenza affettiva, che nel 2013 è stata inserita per la prima volta nel DSM-5, ossia il manuale diagnostico per eccellenza dei disturbi mentali, ed è un racconto intimo, autoironico, sui miei troppi amori troppo amati, per citare Robin Norwood, appunto in Donne che amano troppo, intrecciato a storie di uomini e donne che hanno amato troppo e che negli anni io ho intervistato, ascoltato e con i quali ho dialogato. Quindi parliamo di dipendenza affettiva, è un racconto autobiografico o c'è anche un po' di fantasia? Allora, parte da un dato come se non lo sapessi. Esatto. Mi sembra un po' strano dirtelo a te che l'hai proprio vissuta queste storie. No, allora parte chiaramente da un dato autobiografico molto forte e anche abbastanza importante. Ma appunto, come dicevo prima, ci sono tante altre storie di altri uomini, di altre donne e anche determinati elementi di fantasia. Quindi si parte da un dato personale per cercare di rintracciare appunto dei nuclei ricorrenti, delle tappe ricorrenti in queste dinamiche di relazioni di codipendenza. Arrivi all'ITC di San Lazzaro, quindi qui a casa, no? Casa tua, adottiva, ma casa tua a Bologna, dopo una tournée, anzi nel mezzo di una tournée molto fortunata per uno spettacolo indipendente. E questa tournée anche grazie al fatto che Molto dolore per nulla, nella primavera scorsa è risultato vincitore di Inbox 2024, un bando molto importante per i progetti di teatro indipendente. Ci racconti un po' che città hai toccato, quelle in cui arriverai? Allora, la settimana scorsa, cioè il 28 di novembre, ho fatto la mia 30ª replica di questo spettacolo e devo dire che ne ho altrettante, quindi sono molto contenta e felice di poter toccare tante città d'Italia. Molto nord ho fatto e farò, sono passata da, beh, comunque da Roma, da Firenze dove tornerò, da Torino dove tornerò, da Pordenone, dal Friuli in generale, dal Veneto, dove insomma ci sono toccherò tante regioni e sto anche lavorando appunto alla stagione 25-26 per cercare di andare a sud, dove sono stata soltanto a Tropea e quindi ecco, devo ringraziare chiaramente il premio Inbox che mi ha permesso di far girare, di far circuitare lo spettacolo molto, anche se appunto ancor prima di Inbox lo spettacolo aveva già fatto una ventina di repliche, quindi sono grata a tutte le realtà, a tutte le compagnie, a tutti i teatri che mi hanno ospitato fino ad Inbox e hanno permesso a me e allo spettacolo di crescere. Quindi, come spesso diciamo, non è stato poi così per nulla tutto questo dolore. E biglietti? Chi li vuole? Chi è interessato? Cosa fare? Come fare? Allora, io so in realtà che ci sono rimasti pochissimi posti, quindi se volete affrettatevi, potete trovare i biglietti su Viva Ticket direttamente, oppure andando sul sito dell'ITC Teatro dell'Argine o nelle pagine social del teatro, dove c'è appunto il link che vi rimanda direttamente a Viva Ticket per acquistare i pochissimi biglietti che sono rimasti. Vi aspetto! Quindi per chi si riesce ad affrettare ci vediamo dopodomani mercoledì 4 dicembre alle ore 21 ITC Teatro dell'Argine di San Lazzaro con Luisa Borini in Molto dolore per nulla. Grazie Luisa. Grazie. Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti e a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie Stefano. Buona Coxo Spaziale! Ma grazie a te, meravigliosa Giulia Quadrelli. E continuiamo con le menzioni. Giovedì 5 dicembre, invece alle ore 14, la curatrice è presente nell'ambito della mostra Tramando le acquisizioni di Francesco Arcangeli per la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, visitabile nella Project Room del Mambo fino al 6 gennaio, ogni giovedì fino al 19 dicembre, ovvero questo e il prossimo, dalle 14 alle 16 è in programma la curatrice è presente. Quattro appuntamenti che vedono Uliana Zanetti, curatrice dell'esposizione, instaurare un dialogo diretto con le visitatrici e i visitatori interessati ad approfondire i contenuti della mostra. Tutto questo nella Project Room del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Bello, grande Uliana. Sempre giovedì alle 18 la sala conferenze del Mambo ospita la presentazione del volume monografico Giuseppe Pietroniro, edito da Silvana Editoriale e curato da Giuliana Benassi. Questo è alla sala conferenze del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna alle 18 di giovedì. Stessa ora, stesso giorno, 18, ore 18 di giovedì, Are We Closer, per i giovedì della Lercaro, un talk di approfondimento sull'opera Record di Francesca Grilli e sulla rassegna Closer. L'evento sarà l'occasione di ripercorrere alcune delle tappe passate in corso e future del progetto grazie agli interventi dei curatori Amerigo Mariotti e Giorgia Stronconi di Adiacenze e Eleonora Angiolini e di alcuni degli artisti coinvolti. Francesca Grilli, autrice dell'opera video Record, attualmente esposta all'interno della collezione permanente del Museo Raccolta Lercaro di Bologna. Sagnesca e Diana Popovac, che a maggio hanno presentato la performance Tenderness is Reserved for the Unpredictable presso il padiglione Spring Nouveau di Bologna in diretta streaming con il NYSS Project Space a New York, e Drian Zenelli, che condurrà una masterclass chiamata Unlikely Collisions, collisioni improbabili, dal 9 al 13 dicembre presso Adiacenze. Tutto questo è giovedì 5 dicembre alle ore 18 alla raccolta Lercaro in via Rivareno a Bologna. Non è finito, sempre giovedì 5 dicembre, sempre alle 18, Bologna per Bologna, serata di beneficenza. Alle ore 18 Carlo Felice Chiesa presenta i libri di Ronzulli 1964, Fotostoria di uno scudetto, e Artori Vari We Are the Champions con edizioni, di Edizioni Minerva. Perché alle 19 c'è un'asta benefica dell'opera Bologna FC 12 maggio 2024, Olio su tela, dell'artista Maurizio Tangerini, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Comaschi come battitore d'asta. Il ricavato di tutto questo sarà devoluto al Fondo Città Metropolitana di Bologna Emergenza Alluvione, e questo è alla Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. Dopodiché venerdì 6 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 la cooperativa sociale H Parlante e il dipartimento educativo Mambo propongono la visita guidata per tutti Disegni non convenzionali in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità all'interno del calendario di iniziative ed eventi nei musei di Bologna e della città metropolitana. Attività gratuita con biglietto d'ingresso al museo. La prenotazione obbligatoria si effettua scrivendo all'indirizzo email mambo@edu.comune.bologna.it entro le 13 di venerdì. Tutto questo al Mambo in via Don Minzoni 14, come al solito a Bologna. Venerdì anche inaugura una nuova galleria. Alle ore 18.30 la galleria Leon, diretta da Leonardo Iuffrida, aprirà ufficialmente le porte al pubblico in via Galliera 42/A a Bologna, invitando appassionati d'arte, collezionisti addetti ai lavori e professionisti del settore a scoprire un'esperienza artistica unica nel suo genere. Poi scopriremo perché è unica nel suo genere. In occasione dell'apertura il fondatore Leonardo Iuffrida presenta la doppia personale Flemish Flair di Camilla di Bellavecchia e Marco Gualdoni, due fotografi italiani il cui stile richiama la memoria e le atmosfere degli artisti fiamminghi. La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio 2025. Questo appunto alla Galleria Leon in via Galliera 42A a Bologna. Sabato 7 dicembre, da sabato fino al 23 febbraio, a Palazzo Bentivoglio presenta riassunto delle puntate precedenti, la collezione Stame Lanteri. una mostra a cura di Tommaso Pasquali con allestimento di Ferruccio Laviani, che ricostruisce la straordinaria collezione che nel cuore del Novecento ha abitato gli spazi del Palazzo Bolognese. Oggi che la collezione è stata progressivamente ripartita a seguito di diverse divisioni ereditarie, la ricostruzione di un suo nucleo significativo rappresenta un'occasione unica per raccontarne le inclinazioni di gusto e le aperture internazionali descritte per esempio dall'acquisizione di opere di Christian Schad, Max Ernst, Alberto Savigno, Filippo De Pisis, Alberto Burri, Louise Nevelson e Thomas Wesselmann. Tutto questo a Palazzo Bentivoglio in via del Borgo di San Pietro 1 a Bologna. Bello. Poi sabato 7 dicembre c'è anche Martin Parr che arriva a Bologna. Il fotografo inglese si racconterà nella serata di presentazione della sua mostra Martin Parr Short and Sweet in corso al Museo Civico Archeologico. Sarà anche l'occasione per assistere alla proiezione del film documentario I Am Martin Parr, diretto da Lee Schulman. Alle 18 c'è l'Artist Talk, che però è già sold out, per cui un cazzo. Alle ore 19.30 proiezione del film I Am Martin Parr. Sarà dunque possibile per chi lo desidera assistere al film inedito a partire dalle 19.30, ovvero subito dopo l'Artist Talk e l'immancabile firma copia del catalogo della mostra, appunto Martin Parr Short and Sweet, pubblicato da 24 ore cultura. La serata sarà anche l'occasione per regalare o regalarsi un biglietto eccezionalmente scontato per la mostra per chi non avesse ancora avuto l'opportunità di vederla, soprattutto dopo i racconti backstage di Martin Parr. Il biglietto appunto è 7 euro. Questo è al cinema modernissimo in piazza Renzo 3 a Bologna. Quando? Sabato 7 alle ore 18. Ma. Sempre sabato alle ore 19.30 invece Xing presenta a Raum la sua sede di Bologna, Institute of Rests, il progetto di ricerca della coreografa Alix Einaudi, in Mobility Salon No. 4, con il sound designer Paul Cotal, la curatrice e scrittrice Anne Faucheret, il duo di performer e ricercatrici Zoe Francia La Mattina e Ida Malfatti, l'artista visiva e danzatrice Cecil Tonizzo e la ricercatrice Daniela Crocetti. Ci sono più informazioni naturalmente su xing.it. Tutto questo è a Xing in via Casselvatica 4 a Bologna, sabato sera alle 19.30. Attenzione, Camilla sta prendendo appunti. Infatti, comunque no, sapevi già tutto. Infatti, perché lei era venuta anche da Alchemilla, Alix. Mm-hmm. Aveva fatto il prelude a questo progetto. Aveva fatto un anno fa. Un anno fa, esatto, quando avevi fatto. Mentre invece domenica 8 dicembre dalle 10 alle 13 di mattina Magazzino Art Gaze presenta Bussare prima di entrare, la mostra personale di Enrico Pantani contornata da una colazione plant based. Questa è a Maghi in via Testoni 5/D a Bologna. E ce l'abbiamo fatta a finire, anche perché sta finendo la trasmissione. È incredibile. Sei non abbiamo stato neanche. Bravissimo. No, non sono stato bravissimo, c'è troppa roba. Infatti, stavo pensando di abolire le menzioni. Cioè, no, come facciamo? Cioè, mi riempiono mezza puntata. Io volevo chiacchierare un altro po' con voi. A parte il fatto che non vedo i miei amici di Panta 80, che di solito sono in macchina che ci ascoltano, per cui li salutiamo e corrono in mezzo al traffico che per arrivare in tempo, e invece io posso sforare un attimo e chiedervi un'ultima cosa: cos'altro succederà ad Alchemilla nei prossimi tempi? Perché sappiamo tutti che la deadline è il 15 dicembre per dire a Lorenzo Balbi cosa succede durante Arte Fiera. Sai che ancora non. Ah, fantastico! Non posso. Ah, cioè, non puoi dire niente? Non mi voglio sbilanciare perché sì, ci stiamo ripensando, insomma, non è una cosa decisa ancora. Ok, fantastico. Quindi. Beh, nel frattempo, comunque, c'è la meravigliosa mostra di Alessandro Trapezio e Italo Zuffi. E comunque, se ci fosse qualche persona generosa che elargisce e irradia con quelle cose che si chiamano euro, di cui noi siamo ignari dell'esistenza, esatto, potrebbe sempre scattare da un momento all'altro un'edizione di Artisti Marziali, perché è anche un po' estemporaneo, capito? Mm-hmm. Cioè un po' come un fungo. Okay. Ah certo, questa basta è un'idea. Raggio di sole che esce. Ok. Sì. No, in effetti. Invece, tornando a Moraduccio, diciamo gli orari d'apertura, i giorni che sono il sabato dalla mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 fino al 21 dicembre che sarà il giorno del finissage con Ricky Primi e Cotillon e Renfini che fa no. Posso dire una cosa su questa certo. mostra? Dimmi una cosa su questa mostra. Mi ha colpito mostra, tantissimo a me questa mostra perché sono arrivata un po' così scettica perché non ci sono state tante mostre, anzi mai, di fotografia a parte fotoindustria, ma non ci sono mai state proprio mostre di fotografia dal Camilla, quindi conoscendo bene quello spazio, hanno ripreso, insomma, hanno fatto tante cose in quello spazio in questi anni, ho detto, non so, sono andata così, tipo, vediamo. E invece queste fantastiche sono rimasta folgorata, a parte per, il racconto visivo, secondo me, è potentissimo e riporta un aspetto anche di incontro con quello che è una dimensione dell'invisibile che troppo spesso viene assolutamente castrata in questa società dove il visibile nell'immagine è sempre esplicito. È difficile fare un'immagine, quindi dare un'immagine di qualcosa di invisibile, e secondo me questo connubio tra loro due fa uscire questo dalla mostra. Hai capito? Bello. Hai capito? Io ho avuto questa cosa. Puoi scrivere un pezzo se vuoi sulla mostra. Sì. Puoi scrivere un pezzo, in effetti. Facciamo tutto tra di noi. Esatto. Sì, no, in effetti ce la suoniamo, ce la cantiamo, ma hai fatto diventare questa trasmissione troppo alta. Ma no, scusa, adesso faccio tutto. No, in effetti. Ci vuole qualcosa di scurrile. No, bisognerebbe pensare. La bestemmia toscana, se vuoi, guarda. Bisognerebbe pensare a una trasmissione apposita per la Veronica Santi di cultura alta, di pensiero alto. A mezzanotte, però. Esatto, a mezzanotte, in effetti. Che sarebbe addormenti bene, esatto, bene. Sarebbe bene. da fare il prossimo podcast. Prossimo podcast. Lo facciamo fare alla curatrice. Infatti. Bene, io vi ringrazio tantissimo, è stato un super piacere, mi dispiace sempre che il tempo vola in maniera veramente esagerata, addirittura non abbiamo fatto sentire Marco Roma che ogni giorno a Radio Città Fujiko canta in vocali, anzi continua Marco perché naturalmente ti vogliamo bene, ti vogliamo molto bene. E grazie a Camilla Vizzani e a Federica, buonanotte Veronica Santi. Beh, a questo punto vale tutto. Che mi chiamano vale Veronica tutto. Grazie a te Stefano Pasquino. Ok. Grande Stefano. No, io ero Chiara Pergola come al solito. Ciao questa... Chiara, ciao Chiara. Chiara che c'è infatti, mancata. No, infatti sì, che sicuramente ci sta ascoltando davanti a una calda cena. Che io ho scambiato più volte per la Comani. È vero. No, ma infatti, scambiamo la Daniela Comani per Chiara scrivere, e viceversa. Ci sarebbe da scrivere un ma quale trasmissione alta, Pasquini? No, ci sarebbe da scrivere un libro su tutti questi errori di persone, eccetera, nel mondo dell'arte contemporanea. Scambio di personalità. Molto bene, e come al solito, naturalmente, questo era Coxo Spaziale e ci risentiamo lunedì prossimo e come al solito ci salutiamo con le parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Son love.